Io invece sai, pensavo che secondo me la birra e ognuno porta un suo argomento, cioè una sua tematica. Arriva l'acqua. Posso tura su missione no buona. No, lo vedrete cosa succederà tra 18 mesi. Salvateli tutti. A stronzo! Pop Corner. Ah, belli di Runtime, bentornati a questo nuovo appuntamento con Pop Corner, come avete appena sentito dalla nostra meravigliosa sigla, dove noi diciamo di parlare davanti alle birre e arriva l'acqua, che è un po' una vergogna, ma con me qui incatenato mani e piedi e insalamato come se fosse un detenuto ungherese, Marco Gualdi. Buonasera, ma l'acqua ci serviva per lavarci i piedi, ricordati bene questa cosa. Non era così, abbiamo fatto venire l'acqua per lavarci i piedi. Poi si usava una volta in Galilea, capito? Ci si lavava i piedi e poi si mangiava. Galilea. Tra l'altro, dopo vi dico una cosa, perché ci sono cose che succedono sempre quando tu scorri i video su YouTube. Poi a un certo punto YouTube decide di mandarti delle cose e tu fai però non è corner. Esatto. E appena reduce dalla sua trasmissione Le Orazioni della Sera, che ritrovate domattina alle 6 con Le Orazioni della Sera Prima, Walter Sbano. Sì, vabbè, ma io voglio una sorta di indennità, perché mi pare veramente anche troppo. Io non penso che se lo meritano. No, infatti, comunque dovresti configurare il microfono reale, non quello della webcam. Hai tempo. Arrivo. Per farlo. E... no, lui è quello normale, è solo che sta dentro la testa del cesso, con la faccia nel cesso. Ah, beh, ritorniamo a vecchie storie. E invece è reduce da una lunga battaglia contro la cistifellea e non abbiamo ancora capito. Non credo che sia questo l'accento, ma vedremo. No, cistifellea. Credo che sia la cistifellea. Cistifellea, il nostro amico Carmine Puccio Console. Ma chiamiamola pure codicisti, non vi preoccupate, c'ha tanti nomi, uno per ogni danno che può fare. Addirittura come il demonio. Cioè, allora. Adesso, Walter, ti sento bene. Lo so, infatti era una prova implicita. No, dicevo, chiamiamola Mario allora, se ha tanti nomi. Mario, esatto. Che sono stato ricoverato per Mario. Però è femminile, quindi la chiamerei Maria. Io la chiamerei Maria. Prego, Puccio, che Marco te parla sopra, c'ha questa brutta abitudine. No, ma c'ha ragione, tutto sommato, ma merito, perché la settimana scorsa non c'ero ed è stata una puntata bellissima. E quindi. Poi semmai è lui che parla sopra. No, sotto, però ci sei stato la puntata dei videogiochi che a un certo punto te ne sei andato. Mi hanno chiamato, porca miseria. È così, quando il signore ti chiama, tu devi andare. Quando si vado verso la luce, proprio. L'importante è tornare, comunque. Esatto, infatti, sono d'accordo. Allora, ragazzi, purtroppo, la scorsa settimana abbiamo inaugurato, purtroppo devo dire, da un certo punto di vista, l'evoluzione di quello che Alex Raccuglia fa nel suo podcast. Lui ha costruito questo software che tramite l'intelligenza artificiale fa il riassunto delle sue puntate in podcast. Noi abbiamo esteso all'ennesima potenza questa cosa, creando delle piccole fiction con delle cose che sono dette in puntata, ma che poi non c'entrano niente con quello che viene detto in puntata. Quindi andiamo con il secondo episodio. Il racconto della serata. Insomma. Il racconto della serata, che non è. Cioè, noi la chiamiamo così, ma no. Però vabbè. Quello che è. Ci vediamo fra poco. Ricordiamo che è una storia triste questa. Molto triste. Marco era un ragazzo timido e impacciato, che aveva una passione per il cinema e per le star di Hollywood. È vero? Un giorno, mentre navigava su internet, vide un annuncio che lo colpì. Vuoi partecipare al nuovo film di Will Smith? Invia il tuo curriculum e una foto a questa email e potresti essere scelto come comparsa. Hai capito? Marco non ci pensò due volte e inviò la sua candidatura, sperando di realizzare il suo sogno di incontrare il suo attore preferito. Qualche settimana dopo, ricevette una risposta positiva. Era stato selezionato per una piccola parte nel film, che si sarebbe girato in Svezia. però in Svezia. Marco non ci poteva credere. Avrebbe avuto l'occasione di viaggiare, conoscere una nuova cultura e lavorare con Will Smith. E poi c'era Will Smith. Si preparò la valigia e partì per l'avventura. Arrivato in Svezia, Marco si recò sul set, dove venne accolto da una ragazza bionda e sorridente, che si presentò come Giulia, l'assistente del regista. Che è un nome svedese, appunto. Giulia lo accompagnò nel suo camerino, dove gli consegnò il copione e gli spiegò la sua parte. Doveva interpretare un medico che doveva operare d'urgenza Will Smith, il protagonista del film, che aveva una cistifellea infiammata. Marco rimase un po' perplesso. Non sapeva bene cosa fosse la cistifellea, né come si facesse un'operazione. Giulia lo rassicurò, dicendogli che si trattava solo di una scena comica e che non doveva preoccuparsi di nulla. Che è sta cistifellea? Sti cazzo. Marco lesse il copione e si accorse che conteneva molte blasfemie che doveva pronunciare durante l'operazione. Non era abituato a parlare così, ma pensò che fosse parte del personaggio e che dovesse adeguarsi. Si mise il camice bianco e il cappellino verde e si diresse verso la sala operatoria, dove lo aspettava Will Smith, disteso sul lettino, con una maschera di ossigeno sul viso. La scena iniziò e Marco si avvicinò al paziente, cercando di mostrare sicurezza. Prese il bisturi e fece un'incisione sull'addome di Will Smith, che si contorse per il dolore. Marco si spaventò e lasciò cadere il bisturi, che finì per terra con un tintinnio. Il regista urlò: "Taglia!" E si avvicinò a Marco, visibilmente irritato. "Che cosa stai facendo? Devi essere più deciso, più professionale, più divertente e soprattutto devi bestemmiare di più. Questa è una commedia, non un documentario. Riproviamo." Ma pure Will Smith stava bestemmiando. Marco si scusò e si preparò a ripetere la scena. Questa volta cercò di essere più disinvolto e di pronunciare le blasfemie con più enfasi, ma il risultato fu ancora peggiore. Ogni volta che Marco apriva bocca, Will Smith si metteva a ridere sotto la maschera, rendendo impossibile continuare la ripresa. Il regista perse la pazienza e decise di cambiare la scena. Al posto di Marco, mise un altro attore che aveva una particolarità. Era in grado di estroflettere i propri bulbi oculari a comando, creando un effetto comico e spaventoso allo stesso tempo. Marco si sentì umiliato e deluso. Si tolse il camice e il cappellino e si allontanò dal set senza salutare nessuno. Si rese conto che il suo sogno si era trasformato in un incubo e che non era tagliato per il cinema. Decise di prendere il primo volo per tornare a casa e di dimenticare quella brutta esperienza. Però, mentre si dirigeva verso l'aeroporto, si fermò davanti a una vetrina dove vide un poster del film con il titolo "Santo cielo, la commedia più blasfema mai girata". Era già uscito il film. Cioè, tempo di un volo aereo e questo qua il film era già uscito. Così, era un corto. Mi sfugge la sequenza degli eventi. Anche a noi. Cioè, in realtà l'altra settimana la puntata era incentrata su Rocco. Freddy, e questa volta era invece direttamente su Marco, che giustamente ci ha tenuto a voler la cistifellea. Esatto. La cosa bella è che, ovviamente, essendo una commedia dove bisognava bestemmiare, perché perché nasceva dal fatto che Marco l'altra settimana aveva portato la notizia che al cinema, nel cinema italiano, nei film italiani, era stata sdoganata la bestemmia, perché ci sono un paio di film dove si bestemmia. E allora da questa cosa un po' è nata, insomma, tutta questa meravigliosa storia dove tu sei entrato all'operatoria, tagli, eppure Will Smith lì, Will Smith. Io avrei una domanda. Prego. Will Smith e il rapporto con Marco Gualdis, ma gli scappi te l'ha tirati? Come, scusa, non sto sentendo. Will Smith, sì. Gli scappi te l'ha mollati? Doveva stare fermo, faceva il malato, no? Non poteva muoversi. E poi semmai E anche lì nasceva da questa cosa, che io ho fatto questo appello del fatto che quest'uomo aveva dato uno schiaffo malamente a un tizio rock, in maniera così anche inopportuna, alla fine gli hanno distrutto la vita. Questo perché, esatto. Ma perché in realtà quella scena lì l'ha recitata male, cioè quando lui ha preso a schiaffi si vedeva che non era proprio convinto, stava a fare la parte, insomma. Quindi, quindi d'ora in poi Will Smith potrà fare solo ruoli da tetraplegico, esatto. E poi lo devi aprire con un taglio nello stomaco, esatto, esatto. Perché lì il realismo, capito? Ma poi la cosa bella di questo racconto è quando cade il bisturi con il tintinnio, capito? Cioè tutti questi dettagli, questi fegatelli narrativi, insomma, che assolutamente importanti. Va queste bene, frattaglie narrative. Va bene, ragazzi, benvenuti a Pop Corner, che insomma in finale, verso il finale, ce n'abbiamo anche un'altra di storia, ma è una storia che però viene da Andrea Trevisan, che salutiamo e con affetto, salutiamo con molto affetto, perché che l'abbiamo perso, no? In questo momento, diciamo, non sta passando proprio un momento allegro, e quindi noi sto cercando di spronarlo il più possibile a fare i podcast con noi. No. Vabbè, comunque, scherzi a parte, insomma, dai Andrea, ti aspettiamo per la prossima puntata. Detto questo, io direi di parlare di cose pop, giusto Marco? Lo potremmo farlo. Io andrei da loro due, perché secondo me loro si sono preparati. Anch'io me l'ho preparato tutta una intro, però questa cosa della fiction, che tutto sommato mi destabilizza ancora. Beh, è una storia pesante. È una storia triste. Sì. Walter, cosa ne pensi della storia della Cistifellea? Walter? C'è morto Walter. No, cioè, non avevo acceso il canale. No, dicevo, della storia della Cistifellea ancora non ho capito se ci serve o non ci serve. Quello non ci serve. Ci serve, ma se no famo un'autostrada anche lì, no? Sì. Un po' come il Tevere. Esatto, ma secondo me la Cistifellea è un po' come il Molise. Cioè, un po' tutto sommato, no? Tu ti domandi se esiste o non esiste. Esatto. E come Atene. O una Atene a capitale, la Grecia, Atene. Adesso domande amniotiche come il liquido. E anche un po' amniostiche, sì, hai ragione. Sì. Dunque, mi hanno detto che sei stato al cinema? No. Io sono stato al cinema. Ah, tu sei stato al cinema, incredibile, poi Buccio. No, io sono fuggito sabato pomeriggio, abbandonando moglie e figli, dicendo "io vado al cinema". L'idea potevi tranquillamente dirgli che andavi a toglierti la Cistifellea, secondo me ti avrebbero creduto. Che andavo a comprare le sigarette, ma tra questi ho smesso di fumare e poi sparire in Argentina per 30 anni. Adesso le conviene in Argentina. Che ci troviamo con l'aria che tira. In Argentina porta dei dollari, però. Sì, porto i dollari e i cani clonati per fare simpatia a Milei. Niente, praticamente ho abbandonato la famiglia con l'idea di vedere nello stesso pomeriggio sia The Holdovers, il film con Paul Giamatti, che Perfect Days, il film di Wim Wenders. Sono riuscito a vedere soltanto Holdovers per motivi di incastri di orario che non erano proprio fattibili. Cioè tu sei uscito di casa per andare a vedere due film insieme? Due film, sì, sì. No, perché insomma è un po' un problema se... Cioè, i due figli. Cioè, lui lo voleva vedere insieme proprio contemporaneamente. Esatto, ma non c'è riuscito, purtroppo. Cioè, ma come non potete farmi vedere tutti e due film insieme, esatto, proiettati uno sopra l'altro? Esatto. No? Ma poi scusa, Holdovers sarebbe il sequel di The Leftovers? No. Assolutamente no. No, è una storia ambientata negli anni 70, anni 70, che in un liceo americano di quelli di elite, dove si entra solo con soldi o raccomandazioni, e parla di questo docente che si trova a gestire all'inizio un gruppo, alla fine solo uno, di ragazzi che sono stati lasciati a casa, o meglio a scuola, non sono tornati a casa per le vacanze di Natale, con uno in particolare con cui non ha esattamente un rapporto idilliaco, si sviluppa una forma di strana amicizia. Alla fine è un film sulle solitudini, tra quelle che capitano, quelle che ti scegli e quelle che ti cuciono addosso gli altri. Che bello! Però è una commedia, alla fine agrodolce, ma è una commedia. Io però mi volevo vedere sto cazzo di Perfect Days, di cui parlano tutti come se fosse il nuovo termine di paragone per la settima arte, e niente, invece mi toccherà aspettare un'altra settimana. In compenso, ho capito perché gli hanno dato il Golden Globe a Holdovers, semplicemente perché c'è Paul Giamatti, perché il film praticamente lo fa tutto lui. Comunque, se vi capita, io un salto, anche a rivederlo, lo farei. Beh, devo dire che Paul Giamatti è un attore bravissimo. Io l'ho cioè già lo amavo prima, ma quando ho iniziato a vedere il personaggio che interpreta in Billions, l'ho trovato veramente notevole, veramente, cioè, bravo. No, anche perché Billions in sé, secondo me, non è scritto neanche granché bene, è lui che lo regge. No, sì, Billions. Sono sui due protagonisti che... Soprattutto una volta, come dire, incamerati certi meccanismi molto ripetitivi e molto ridondanti, alla fine diventa anche una palla. Io alla fine, credo a un certo punto della quinta stagione, ho detto basta, perché era diventato molto molto ridicolo. Però così, la butto là, mi sono invece reindirizzato su una serie che per certi versi è simile ma un po' più figa, che è Succession, la storia di questa stirpe di editori televisivi abbastanza conservatori americani che praticamente si prendono a coltellate tra loro, perché c'è il padre ormai anziano che pare a un passo dal coccolone, e i figli che devono in qualche modo contendersi la poltrona che il padre dovrebbe lasciare libera, ma poi in realtà succede un po' di tutto. E devo dire che è una serie molto molto figa, perché rispecchia un pochino un'epopea abbastanza critica, che potrebbe avere in qualche modo dei rimandi anche in quella che è la famiglia degli ex possessori dell'impero Fox, che poi adesso è stato in qualche modo scisso, in parte è passato alla Disney, quindi c'è stato lo scisma. No, ma comunque, nel senso, quindi tu riuscirai, Puccio, la prossima settimana andare a vedere anche il film dei Wim Wenders? Sì, anzi spero di andarci sabato. Che poi è quello dove muore la bambina, no? Ovviamente. Buttata nel pozzo, ma... Già nel trailer. È una bambina giapponese. Il film di Wim Wenders è quello che racconta la storia di quell'inserviente, giusto? Sì, di uno che lava i bagni pubblici a Tokyo. Sono curiosissimo, ma non so se ho il coraggio di vederlo al cinema, però insomma... No, io ho visto gente che usciva dallo spettacolo che finiva tra il primo e il secondo tempo di Holdovers, e sono uscito per andare a fare la pipì, visto gente proprio uscire in lacrime, ma veramente commossa. E allora la bambina muore, cioè, è morta, e forse anche dei cani, per far piangere così. Muore incastrato con la testa nella tazza del cesso mentre passa di lì in rotto. Per chiudere un po'. No, non lo posso accettare questo. Non senso infilarci dentro anche dei cani a questo punto, perché cioè, allora c'è già, dobbiamo fare la combo. E invece tu, Marco, la prossima settimana, anzi no, fra due giorni, di che cosa si parlerà in Ho visto cose? Allora, fra due giorni spero che si parli di Renfield. Non è che lo devo dire io, insomma. No, perché spero che si parli di Renfield. Penso di sì, perfetto. Non è detto, però sì, comunque. Sì. Bello, è veramente bello, proprio vale la pena vederlo, mamma mia. Comunque, alla fine è divertente. No, io invece per parlare di un'altra cosa pop, ma me la sono dimenticata. Vabbè, mentre ci pensi, risentiamo Walter invece. Delle nomination dell'Oscar. Ah, ma non ci frega le nomination dell'Oscar. No, però che sto vedendo una nomination in particolare, è quella di Ryan Gosling come attore non protagonista di Barbie. Che insomma, gente si divide tra quelli che dicono che hai visto maschilismo, hanno messo lui, ma non hanno messo la Robbie, Margot Robbie, Barbie. Infatti, infatti, il problema non è che non c'è sta lei, il problema è che c'è sta lui. Cioè, possibile che non c'è nessuno meglio rispetto a Ryan Gosling? No, è che il problema è che ce lo devono mettere in qualche maniera. C'ho otto candidature, tipo tre so veramente rubate, ma proprio rubate, non vinceranno a cazzo. Le altre invece sono abbastanza tecniche e potrebbe anche addirittura vincere qualche cosa. C'è anche il film italiano in concorso Mio Capitano. Che è di Garrone. Però basta quello, non ci interessa. Allora, io direi prima di passare a Sbano e fare un attimo un giro di cose pop, perché al di là insomma di quello che, perché giustamente poi Puccio ci ha detto che cosa andava a vedere, ma non è che ci ha insomma detto, non ha fatto una recensione così approfondita, perché come al solito noi gli abbiamo parlato sopra. Io invece vorrei fare una cosa prima di questo, prima di entrare proprio nel vivo della trasmissione, e parlare di quello che ovviamente manca poco, ragazzi, al 9-10 febbraio, scusate, dove ovviamente noi, per gioia di tante persone, faremo questo benedettissimo Anti Sanremo, che è questo festival di runtime in due serate dove canzoni primitive si scontreranno fra di loro alla, insomma, alla faccia del nazional popolare. Però noi ovviamente le cose le abbiamo fatte. Guardi, ce l'hai la chat davanti? Di runtime, la posso aprire? Apri la chat di runtime, perché adesso noi presentiamo in esclusiva, ce l'hanno concesso in esclusiva, una cosa che possiamo fare soltanto noi, e per la prima volta i tre protagonisti di questo festival, ossia praticamente le due vallette e il conduttore. Ok, partiamo dalla prima valletta, che è stata la prima ad essere uscita come nome nelle indiscrezioni, che adesso la mettiamo qua su Dirette Runtime. Marco, leggici la scheda di questo bellissimo personaggio. Allora, Italia, nome, non luogo. No, è nome, si chiama Italia. Italia, 47 anni, cattolica e patriota, selezionata dalla direzione artistica di Lanti Sanremo per far tacere le voci che parlavano di uno sbilanciamento a sinistra. Italia, nome, non nazione, incarna i valori e la tradizione del paese, non disdegnando di indossare durante le due serate del Festival di Runtime abiti con il tricolore in bella vista. E io ho aggiunto che non necessariamente sull'abito. No, però lì parla di abito specificatamente. Infatti si vede la foto di lei, insomma, molto tricolorico, molto tricolorica e molto composta, insomma, una persona che si vede che sono piena dei principi morali. Ma poi l'hanno riempita per bene di principi morali, insomma. L'hanno riempita per bene, che lei, insomma, sarà particolare, perché chiaramente, insomma, in un festival frizzante bisogna vedere se sarà adeguata, insomma, anche perché poi c'è già una polemica che adesso vi racconterò, naturalmente. C'è la seconda valletta, perché sono due le vallette, giustamente. E questa, insomma, potrebbe essere un controbilanciamento, ma secondo me neanche più tanto. Tra l'altro non sono riuscito a fare una signorina col vestito sexy, perché proprio nessuno lo voleva fare sto foto. Non si possono fare. Non si può fare, non si poteva fare proprio. Non ho detto nuda con la fregna di fuori. Seduto di succinto. Niente. Comunque si tratta di Priscilla, 24 anni, alla terza media. Il titolo di studio, immagino, non la sì. Ok, non sa chi sia il presidente della Repubblica, ma questo credo lo sappiano anche alcuni carabinieri. Esatto. Tutto sommato ci sta. I carabinieri non è che non lo sanno, Marco, non lo riconoscono, che è diverso. Uguale. Ma non lo riconoscono anche perché non lo sanno. Ma infatti, se tu vai per strada, questo chi è? Boh. Esatto. Perché non lo sanno? E rappresenta un emblema di sicurezza per i conservatori, che non avrebbero apprezzato una ragazza seminuda sul palco dell'Anti Sanremo, anche se in realtà sarebbe stata anche in quel caso semivestita. Noi ce l'avremmo voluta seminuda, però purtroppo non c'è stato consentito. C'ha la minigonna, però dai, cioè, gonna però si dice che ogni tanto, attenzione, si faccia scappare una zizza di fuori, ma solo per distrazione. Esatto, perché è un po' così. Anche quella però dipinta di tricolore, è un po' tontolona, si dice che ogni tanto lei dice sì io sono un po' tutta così garbata, però mi scappa una zinna, insomma, così. È un po' sessista questa cosa. E questo invece il conduttore, proprio, quindi il conduttore centrale, quello più importante, che secondo me è quello che ha scatenato tante polemiche anche in conferenza stampa con Italia in particolare, che si è lamentata perché dice: se questo è il festival della musica e della contromusica italiana, insomma, ci dovrebbe essere un conduttore italiano. E invece no, è stato scelto un personaggio incredibile, secondo me, tra l'altro molto famoso. E invece le altre due no, lui è molto famoso, perché si tratta di del famoso Ernesto Vara, detto il cieco. Esatto. Quindi Ernesto del cieco Vara. Esatto. Ed è Vara. Appunto lui il nostro presentatore ufficiale, ha 60 anni, è ovviamente giamaicano, non vedente, però, cioè, ragazzi, è perché è un festival inclusivo, quindi non rompete le balle. Esatto. Non ha la minima idea di cosa indossa, e di solito e soprattutto essendo un caraibico non ha idee in generale. Però, vabbè, nel senso che è stordito di suo. Vabbè, ma cioè, anche quello. Però ecco, questo è, ecco, io, me è un trittico. Eh sì, io volevo sentire proprio da Walter, appunto, in merito a questa polemica che c'è stata da parte di Italia, che si è lamentata del fatto che giustamente lui non è italiano, insomma, ecco. Beh, sapete che quest'anno c'è ancora Amadeus, ma adesso lo cacciano, eh? Quindi l'anno prossimo tutti gli ogni festival, anche la sagra del panino con la salamella sarà organizzato con la direzione artistica di Morgan, e quindi si risolverà il problema alla radice. Per quest'anno purtroppo è ancora un retaggio di quegli sparchi comunisti che governavano fino all'anno scorso, e tocca ancora sorbirsi questo compromesso, ma vedrete che l'anno prossimo la canzonetta italiana sarà tutta di un'altra pasta, e anche tutto l'evento adesso collegato, è vero? Sì, ma scusate, non è Morgan Freeman però? Signor Freeman. Non è lui, immagino. No, è Morgan si svegli. Oh, ragazzi, cioè, ma lui no, ma io comunque volevo sapere cosa ne pensi di Ernesto Vara. Ernesto Vara c'è. Invece Puccio, tu che ne pensi della polemica di Italia nei confronti di Ernesto perché non è italiano? Ma alla fine lo sai, no? Tutti i sudamericani sono un po' italiani o un po' tedeschi, dipende se i nonni, insomma, da quale nazione sono scappati per primo. Ma comunque stavo guardando la fotografia, cioè è interessante, è chiaro che si veste meglio di me, quindi già è un punto a suo favore. Ma quello solo perché è cieco, giusto? Esatto. Perché sì, lui non sa che cosa si cosa indossa. Io vi voglio ricordare una cosa: quando si dice questo non è italiano, di qua di là, io vi sfido a trovare un singolo essere umano nel mondo che non abbia sangue abruzzese, che non è italiano. Esatto, che non è italiano. Esatto. Tra l'altro, però sì, questa polemica tra l'altro di Italia, che diciamolo che forse sarà un po' pesante perché ha detto che è giamaicano, non solo non è italiano, quindi è giamaicano e quindi è straniero, ma è anche un po' troppo scuro. No, ma se lei lo so, il problema è che c'era anche un sottinteso sul fatto che essendo giamaicano si fa le canne, quindi no, ma il problema è che droga, Ernesto, no? Poi ha detto scusate, ma non me ne ero accorto. Scusate, come avrebbe detto il compianto cavalier Silvio Berlusconi, non è scuretto, è abbronzato. Sì, ma tu dici, io non me ne sono mai accorto. Quindi, secondo me, la polemica finisce qui, insomma. Cioè. Ma lui non si è accorto di cosa? Scusate. Che è scuro. Ah, e beh, certo, lui non, quindi, non lo sa. Quindi, secondo me, finisce così. Non lo so. Vabbè, comunque, io sono molto confidente. Quindi, Jimmy, sei contento che c'è il, insomma... un sudamericano, Giamaica è Sud America, no? I Caraibi non stanno, i Caraibi per me potrebbero stare nelle... Sì, dai, Cuba, giù sotto al Giamaica, dai, quella Giamaica, roba lì, no? Giamaica. Vabbè, dai, ragazzi, un argomento a testa, partiamo da Walter, dai. Allora, visto che dobbiamo parlare di cose pop, io oggi mi stavo domandando cos'è che fosse veramente veramente veramente pop, o perlomeno cosa è stato veramente pop nella mia vita. Che bella domanda, bella domanda. E noi come facciamo a saperlo? Mi è venuto in mente un oggetto iconico, uno di quelli pop per definizione tra gli anni 80 e 90. L'Arcadia. L'Arcadia è un pub per quanto mi riguarda. L'Arcadia. No, non so di cosa parli, però l'oggetto è un altro. Quindi vi faccio una domanda, perché ovviamente vi giro il quesito. Lo Swatch, ce l'avete avuto mai uno Swatch? Sì, no. Ce l'ho ancora mio padre, perché poi l'ho dato a lui, ce l'ha ancora lui, è funzionante ancora, penso. Uno solo, ve lo ricordate? L'orologio di plastica, per definizione, l'orologio che, pur essendo un orologetto da 50.000 lire, aveva comunque una meccanica svizzera di qualità ed era un po' il sogno di tutti, perché poi ne uscivano collezioni intere ogni anno e si ambiva ad avere i più rari, i più ricercati, prima ancora che poi uscissero i cronografi, gli scuba, i pop. È un cronografo, per dire. Definendo le altre declinazioni, partiamo dallo Swatch classico, quello di plastica col cinturino in plastica con tutti i vari colori, le varie decorazioni, eccetera. Ecco, io per esempio dagli anni 90 ne ho avuti diversi, sia base che crono che altri modelli, però credo che siano veramente un simbolo della cultura pop iniziata veramente negli è anni vero. 90, è rimasta, come dire, nell'immaginario. E Swatch, tra l'altro, è un brand che ancora è abbastanza solido, ci sono ancora i negozi Swatch, continuano a produrre i loro orologi di tutti i tipi, per esempio, non si sono particolarmente votati al concetto di smartwatch loro. Esiste un modello che permette di ricevere qualche notifica, che si collega in Bluetooth, però diciamo con funzioni smart molto molto marginali, però non sono andate oltre quello. E questa cosa un po' mi ci ha fatto ripensare, perché io sono stato abbastanza in fissa e ne ho avuti svariati, però ormai sono tanti anni che sono passato a marche un pochino, diciamo un po', passatemi il termine, adulte, meno pop, però mi sono rimasti nel cuore, quindi volevo che mi raccontaste i vostri Swatch. Allora, è vero, io sono d'accordo, è vero che è un'icona pop di quell'epoca i Swatch. Io non ce l'ho mai avuto io di persona, ce l'aveva mio fratello, ce n'aveva due, però li ha tenuti sempre imballati, perché diceva un giorno... Non li ha mai indossati? Non ha proprio mai spacchettati. Perché qualcuno gli aveva detto che se lui li apriva perdevano di valore e sarebbero diventati degli oggetti da collezione. Poi sono mai diventati oggetti da collezione, non lo so. Allora, in realtà sì, alcuni, perché per alcuni modelli, mi ricordo per esempio uno che andava particolarmente ricercato negli anni 90 era il Gallinero, perché alcune... È il Gallinero... No, quella è un'altra cosa. Però alcuni modelli venivano prodotti in tirature molto più piccole di altri e quindi poi potevano diventare ricercati. Ora, quanto valgano sul mercato di preciso non lo so, che avessero comunque un mercato perché erano rari, questo sì. Marco, tu ce l'avevi detto, gli hai dato al poro padre. È ancora funzionante, quindi è un cronografo, un cronometro. Di che colore era? È a cassa d'acciaio e fondo blu. Fondo blu. Cassa d'acciaio, ma sicuro che era uno Swatch? Sì, sì. Sapete, invece io c'avevo il Casio, quello che si accendeva. Faceva i rumori. E mio cugino c'aveva il Casio che si accendeva e parlava e diceva l'ora. Sì, anche quello molto anni 80. Bello, bello, tutte queste cose qua. Invece Puccio, tu ce l'avevi lo Swatch? Ne ho avuti due. Non mi ricordo esattamente, mi ricordo i colori, ma i nomi dei modelli... dubito seriamente, e vi dirò di più, ho fatto una pensata in tempi recenti a due modelli che ho visto di persona, uno fatto in una specie di materiale simile alla ceramica, mi ricordo se si chiami bioceramica, una roba del genere, che mi sembrava molto morbido, molto... Sì, è come il metallo vivo di Astroganga praticamente. Sì, una roba del genere, però spero con un finale meno triste. Insomma, Astroganga anche, no? Allora, un biocero. Allora, quello partiva male e è finito peggio comunque. Astroganga. Sì, sì, sì. Si chiama proprio bioceramica, vedi, mi ricordavo bene, perché mi faceva molto, era molto piacevole al tatto. E in più hanno fatto di recente una serie speciale dedicata a Dragon Ball e io, essendo notoriamente una testa di minchia, mi ero innamorato di quello con il maestro Tartaruga, solo che ero lì che pensavo, a 45 anni do cazzo vado con l'orologio del maestro Tartaruga, però come oggetto da collezione, tipo da tenere sulla scrivania chiuso, imballato, poteva avere un senso. I due che ho avuto io sono stati uno normale, mi ricordo che era blu con i numeri fluorescenti gialli, e in più mi hanno regalato, per non mi ricordo quale ricorrenza, uno scupa, mi ricordo che era nero e arancione, cioè ero anche contento perché mi sembrava un accostamento di colori elegante, per dire la discromia di cui soffro. Credo tutti e due si siano rotti male, tipo sbattendo contro qualche oggetto, quindi non sono sopravvissuti. Bene, bene. Io invece in realtà, mo che ci penso, a parte chiudere però il cerchio, sì, per provare, vi volevo mettere un'immagine sulla nostra chat di Instagram Radio. Non è quello che possedevo io, ma ci si avvicina molto, cioè nel senso, non è la foto, non l'ho fatta io, ma è praticamente come se l'ultimo Swatch che io abbia mai posseduto, cioè, non l'ho fatta io, ma è come se, che cazzo vuol dire, scusa, nel senso che avevo esattamente quel modello. Ok, quindi volevo specificare questo, nel frattempo l'ho persa, la vado a recuperare. Praticamente quello che vi sto mettendo sulla nostra chat, non so se in qualche modo qualcuno di voi se lo ricorda, è uno Swatch che si chiama Swatch Beat. Ora voi vi direte, vabbè, che c'ha di particolare oltre al fatto di non essere un analogico, ma uno Swatch digitale, ed essere brutto che sembrava una lavatrice. Mamma mia, brutto forte, oh. Sì, però questo dai, col telefono, questo... non so i Nokia, Walter, sono gli Swatch, esatto, questa è già una particolarità. vi dava, oltre che l'orario normale, non so se vedete in basso c'è una piccola chiocciola a 135, perché questo orologio era in grado di darvi questo formato che poi non ha mai avuto successo, che si chiama l'Universal Internet Time. Cioè Swatch si era pensato, si era inventata un sistema, visto che era il boom di internet, no? E quindi si cominciava a comunicare a distanza con persone da qualunque fuso orario o da qualunque parte del mondo. Aveva fatto una riflessione anche giusta, posto che non possiamo usare i timestamp, ma questa è una cosa che capirà solo Puccio, e dovremmo cercare di fare in modo che, se vogliamo dare un appuntamento ad una persona online per interagire, questa persona si trova dall'altro capo del mondo, dovremmo darci un orario univoco universale. E quindi si inventarono questo, diciamo, internet time, che era espresso con chiocciola ed una frazionalità di 999, se non ricordo male, periodi nell'arco delle 24 ore, che era uguale in tutto il mondo. Quindi il concetto dell'internet time era, se per prendere esempio dalla foto che vi ho messo, ci becchiamo in chat su IRC alle @135. Le 135 in Italia corrispondevano alle 135 a Tokyo, a New York, a Istanbul o dove vi pare a voi. Quindi sarebbe dovuto essere un modo per diffondere un orario alternativo che non dovesse essere corretto dai fusi orari. Successo di questa operazione? Zero. No, vabbè, ma allora c'è stata un'epoca in cui le idee erano mille e la standardizzazione era zero, no? Quindi alla fine, prima che si impose, che poi ricorda un po' l'idea della data stellare, no? Cioè, nel senso, data astrale, cioè, quindi un orario universale a prescindere da dove sei, dalla rotazione e da tutto il resto. Insomma, era carina come idea, dai, tutto sommato. Sì, immagino. Evidentemente non ha mai avuto la forza di imporre questo standard alternativo e parallelo. Poi vabbè, l'ho anche applicato ad orologi veramente brutti, perché vi assicuro che veramente ce l'ho ancora nel cassetto, quell'orologio è veramente veramente brutto. Lo indossavo, ma insomma i crono erano tutto un'altra cosa, ecco. No, beh, questo è brutto forte. Poi in generale, secondo me, quando nascevano queste iniziative, no, tipo ecco l'ora universale di internet, magari il produttore magari faceva fede magari sull'utente, no, sull'utenza, sul fatto che questa cosa fosse poi diffusa anche grazie agli utenti, facendola diventare un po' virale. Evidentemente poi non ha mai funzionato più di tanto, insomma, anche perché poi era il problema che comunque in quell'epoca, l'epoca dei modem analogici, non c'erano i social, sì, non c'era ancora talmente tanto di nicchia. C'erano i chat, cioè, insomma, sì, capito, però chattava un pubblico veramente molto ristretto, sì, no, ma poi cioè, alla fine troppo presto, alle @135, io e te aborigeno, che cazzo se dovevamo da dire, perché è sempre questo, insomma, il discorso, anche perché poi la rottura del cazzo è che tu devi sapere che cazzo di ora è sulle 135, cioè. No, quello te lo diceva l'orologio, te lo diceva che in quel momento non, sì, ma 135, se tu dici, se fa tre ore, che ne so, che ore so, no, nel senso, cioè, se tu dovevi adesso a che ora io lo do l'appuntamento, infatti fra tre ore, quindi che ne so, io fa quattro ore, cioè non lo so, cioè. Lo sai perché te lo dice l'orologio, nel senso, una volta che hai capito quanto dura ogni frazione di quei 999, di ma questo che capito, ma chi non è così intuitivo, dai, cioè tu sempre un minimo di periodo di, in qualche modo, di addestramento. Tu vuoi costringere la gente a fare sti conti, a pensare, ma soprattutto mai? Ma perché no, ecco, è un fallimento. L'orologio che deve pensare per te, per questo gli smartwatch hanno successo. Ho capito, però c'è da dire che se all'epoca volevi usare internet, a differenza di adesso, un pochino dovevi saper pensare, perché dovevi comunque poter mangiare uno strumento che non era proprio, diciamo, nella disponibilità e nella normalità delle cose. Non avevi lo smartphone con Facebook preinstallato sul telefono, in tasca, dovevi collegarti a internet in una maniera anche un po', Simone direbbe, barocca, dovevi collegarti al software per installare, eccetera. Insomma, non era proprio semplice. Infatti era tutto un altro mondo, tutto sommato. Sì. No? Ma faccio una domanda, così, che al di là dei IRC, no? Quindi insomma, poi alla fine quelle chat tradizionali, qual è stata secondo voi la chat, il client chat più pop dell'epoca, insomma, degli albori degli anni 90? Vabbè, albori CQ, secondo me. ICQ, anche già è venuto dopo. No, no, pure secondo me ICQ. Io con ICQ poi mi sono veramente divertito proprio tanto, tanto, tanto. Poi c'era qua la cosa dei risate, dei cose. C'è tutto quell'aspetto multimediale, sì, sì. No, guarda che era forte, eh. Io mi ricordo ancora il mio ID che era 8288242. No, no, 2421 1100. Io invidio chi se lo ricordo, sai, perché proprio, che poi tra l'altro esiste ancora ICQ, eh. Sì, sì, sì, lo abbiamo riesumato un paio d'anni fa con Carlo Sant'Agostino per cazzeggiare, cioè abbiamo fatto una chattata di qualche minuto, quindi ancora funziona in mano a una società israeliana che chissà chi cazzo sono. Beh, allora, e allora aspetta. Quasi. E allora speriamo che vada tutto a puttana. Arramento. Esatto. Esatto, come Commodore, il marchio Commodore, diciamo, perché poi insomma. Vabbè, sì, il marchio, ma non i software risorgenti sono in mano a Cloanto. Vabbè, quel discorso che Carlo ci ha spiegato. Sì, mille, sì, sì, no, no. Ma poi questo è proprio uno zozzone. Sì, questo l'ultima iterazione è veramente uno zozzone brutto, brutto, brutto. Vabbè. Vabbè, tra l'altro fecero quello smartphone, non so se ve lo ricordate, il PET. Sì, ma quello era un'altra iterazione ancora. Sì, sì, però dico, cioè, nel senso, alla fine con questo marchio che hanno voluto far sopravvivere in tutti i modi e se lo so passato da zozzone in zozzone, facendoci cose sempre più zozzone. Mo' adesso addirittura un PC ho visto. Dei notebook, sì. Vabbè, dai. Triste, tutto sommato è triste, anche perché poi in realtà fa gioco solo su una questione revivalista, insomma, sul fatto che comunque sì, la gente è affezionata magari a quel marchio, perché non è che tu c'hai comunque il know-how industriale. Sì, è affezionato a quel marchio, è un'età per cui non si fa prendere per il culo da un'operazione di marketing. Esatto. È quello che non capisco. Cioè, beh, però secondo me ci sono i giovani, capito? Quelli che magari vedono un fissa, vedi Commodore, tu ricordi il Commodore? Onestamente non lo so, è un po' come, non so con chi facevamo questo discorso qualche tempo fa, dei ragazzini di pochi anni che probabilmente, so, ok, forse lo facevo con Elisa questo discorso, che si mettono addosso la maglia di Nirvana o di altri gruppi perché vanno molto di moda, ma poi gli chiedi ma chi sono Nirvana, lo sai? Probabilmente no. E già tanto se ti dicono un film da Salvatore. Io per aver fatto una domanda del genere a Capodanno ho rimediato una figura di merda catastrofica, però è probabile che molti non lo sappiano. Luca, ma la tua o quella dell'altro? No, no, dell'altro, cioè mia, perché ho chiesto a questo figlio di amici se la maglietta dei Nine Inch Nails che avesse fosse stata comprata perché gli piaceva il logo, perché li conosceva, e lui mi ha risposto che suonava in una cover band. Vabbè, sti cazzi, cioè, non è mai detto sono con loro, cioè mai detto sono i con loro. I'm a fucking Nin, quello è. Tra l'altro salutiamo Shuren e Luca S in chat. Che tra l'altro sì, Luca S in riferimento alla speculazione sui brand dice tipo il casino e l'albergo Atari. Sì, però quello speculazione diretta, perché il brand Atari è comunque ancora in mano, no? Non proprio i fondatori, ovviamente, ma a, credo, Warner Media. Comunque, sì, sì, ma perché Warner comprò la Atari da coso là, da come cazzo si chiama? Tramiel. No, che Tramiel? Tramiel era Commodore. Vabbè, adesso non mi ricordo. Comunque, vabbè. No, ma Tramiel ha anche gestito Atari. Sì, sì, ci sono stati. Vabbè, ma pure Bill Gates è stato. Sì, Bill Gates, Steve Jobs è stato interno da Atari, sempre questo. Atari allora all'inizio era una sorta. Bushnell, bravo, esatto. Cioè, Bushnell ha venduto a Warner. Warner si è sempre donato al marchio, insomma. Poi, dopo quello che ci hanno fatto, quello che ci fanno, o tuttora, insomma, però Commodore è un discorso completamente diverso, anche perché ribadisco, se non altro lì una direzione, cioè una, come posso dire, un'estrazione diretta da quella che era comunque Atari, volendoci sta, qui proprio stiamo a parlare semplicemente di un marchio, cioè semplicemente di un logo, capito? Semplicemente un logo usato in maniera impropria, sfruttando il fatto che non era registrato per date categorie merceologiche, non è che qualcuno l'ha effettivamente comprato, qualcuno l'ha riregistrato utilizzandolo su altre categorie, e poi perché nessuno può rivendicare, a chi ne abbia interesse sta rivendicando nemmeno la grafica originale, capito? È tutto lì il problema. Comunque il buon Nolan Bushnell, che ricordiamo in uno dei primissimi video che mettemmo nel 2013 sul nostro canale di archeologia informatica, cioè l'intervista che gli facemmo io, Carlo Sant'Agostino e Stefano Paganini, prevalentemente Stefano Paganini, che insomma lui poi disse anche che che piaceva giocare a Minecraft. È incredibile, insomma, un personaggio molto particolare. Sì, sì. La tecnologia informatica che ha tagliato il traguardo dei 5.000 dei 5.000, sì, YouTube, sì, che comincia, insomma, a essere una cosa veramente croccantella. Sì, sì, diciamo che poi negli ultime 3 settimane in particolare c'è stata un'impennata importante e questo ci fa veramente molto piacere. Noi, come abbiamo anche spiegato, in realtà all'inizio non l'abbiamo mai considerato un vero proprio canale YouTube, lo utilizziamo come appendice, diciamo, del podcast. Podcast, certo. Poi quando ci siamo resi conto che ovviamente la potenzialità anche dal punto di vista della divulgazione c'era ed era importante, e insomma ci abbiamo lavorato, negli ultimi 2 anni ci abbiamo lavorato tanto, e che giustamente poi quando ci lavori un po' nel... Ci sta. Qualcosa... Lo dico sempre, io sono un purista dell'audio, a me piace ascoltare, però è chiaro che la cosa bella di archeologia informatica è che è pensato per essere ambivalente, si può ascoltare o si può gustare, se preferite, in video anche su YouTube. Diciamo, l'esperienza non è penalizzante in nessuno dei due casi, ecco. Sì, diciamo che la maggior parte dei prodotti, anche se non tutto... Certo, il documentario d'Avezzano non lo potete ascoltare in podcast. Esatto, perché... non c'ha senso, è chiaro. Però diciamo che la maggior parte delle interviste o degli interventi vengono anche comunque ripubblicati in podcast. E poi comunque adesso fra un po' usciranno anche dei podcast originali, cioè nel senso non direttamente collegati al canale YouTube. Insomma, vabbè, dai, comunque al di là di questo, vedo che poi hanno postato qualcosa. Qua un'immagine, però sono troppo lontano... sulla chat, ah no, non è un'immagine, è un link. No, Mr. Zero linka un tweet, un post su X, sì, di Out of Context Human Race, che cita, allora nell'immagine ci sono una serie di... dice, I had a vasectomy today, wife got me some snacks, che sono tutti... diciamo riferimenti a... A brand, a snack, il cui nome è stato in qualche modo ritoccato debitamente, ad esempio Nutless Buddy invece di Nut Buddy, Unlimited Cream Pies, dove Unlimited è stato aggiunto, No More Kids, quando lo snack si chiamava qualche cosa altro, Kids, No Nuts e così via, quindi tutta una serie, Sorry About Your Tender Balls, tutta una serie di, vabbè, decisamente divertente, però è quasi come racconta un meme, una rubrica storica di OGM. Esatto. Ma poi tra l'altro stavo notando adesso che dietro Sbano c'è la profondità di campo proprio da fotocamera 35 mm proprio. Ah, no, aspetta, sì, perché è vero, perché io... No, no, vabbè, ma non c'è mica... Lo studio sono in webcam, in realtà, perché ci sono degli effetti che io posso in qualche modo abilitare e disabilitare. Sì, sì, no, ma lo so, va bene, ma no, vai tranquillo. Comunque, per esempio, mi è venuto in mente quella cosa degli Swatch che ha detto Walter. Se ci avete avuto il Games Watch... Sì. E come si chiamavano i Games Watch? Scaccia pensieri. Bravo. Scaccia pensieri della Polystyle. Sì, no, io c'avevo quelli dei Nintendo originali. Io c'avevo Donkey Kong. Io c'ho Donkey Kong Junior, ce l'ho ancora. E uno Shuttle Voyage che non so di che marca è. Ah, non lo so, sì, poi insomma. Dicevo Donkey Kong sicuro. Poi ce n'è uno di Topolino. Poi ce n'è un altro con Mario. Però non mi ricordo che robera. Ah, ce ne ho avuti diversi, devo dire. I miei amici sono fissa con qua cosa, con quei giochi. Che poi, se ci pensi, erano geniali come idea, perché comunque alla fine, secondo me, a livello di produzione, no? Cioè, comunque c'era la creatività, però quanto gli poteva costare, insomma, fa una roba del genere. Ma poi i giochi erano limitati, perché poi erano a posizioni, cioè nel senso non è che lo sprite... Come le calcolatrici. Esatto, bravo, nel principio era quello, cioè nel senso c'erano i pupazzetti, le grafiche, c'erano delle posizioni predefinite, quindi... Però quello di Donkey Kong, devo dire che tutto sommato funzionava, cioè... Confermo, l'ho avuto anch'io. Tra l'altro lo usava a doppio schermo, se non mi sbaglio. Sì. Mi sa che è stato il primo a 2 schermi dei Game & Watch della Nintendo. Dovrei vedere sull'enciclopedia dell'hardware Nintendo che ho qua dietro, ma penso sia stato il primo a 2 schermi. Io poi ho avuto una versione di Gauntlet orribile della Polystyle, e un altro, ma non mi ricordo. Mi ricordo che era verde, ma non mi ricordo che gioco era. Dovrei vedere. Vediamo. Game Watch Nintendo. Vabbè, Intanto andiamo avanti, ritmo. E comunque, vabbè, torniamo un attimo un po' anche alle cose che abbiamo visto recentemente. Io ho iniziato a vedere, e ancora non ne parlo perché è molto presto, Ted Lasso. Ah, finalmente. Deve meritare tanto. Io... Guarda, allora, innanzitutto è un buon ritmo, è una commedia fondamentalmente, e le puntate durano poco, cioè durano 25-30 minuti. Quindi alla fine comunque non è una cosa tediosa e via. E forse secondo me se fossero durate di più le puntate sarebbe stato anche eccessivo. Ho già capito dove vuole andare a parare, però devo dire non marca molto, cioè nel senso non appesantisce molto quel tipo di ironia, un po' alla Clerks quasi, insomma, no? Però è divertente l'inizio, proprio i primi minuti di lui che prende sto aereo andando in Inghilterra non sapendo minimamente di che cosa va a fare, continuando a chiamarlo Sucker e la prima conferenza stampa. Devo dire che è carino, c'è subito un plot twist, però secondo me sarà una bella serie, insomma, non vedo l'ora di continuare a vederla perché è carina. Me l'hanno consigliata in tanti, devo dire, e sono contento che l'abbiano fatto, perché non è un capolavoro chiaramente, però insomma è una cosa che va vista. C'è il merito di parlare in maniera non pesante di un argomento pesante come il calcio in Inghilterra. Beh sì, è completamente sdrammatizzato, sì. È anche completamente irrealistico, cioè nel senso oggettivamente, però vabbè. Dicevi, Walter? No, ti volevo segnalare a proposito di cose da vedere, non so se ci hai fatto caso, come ricordo che tu avresti voluto vedere, mi pare che non ci sei riuscito, su Prime Video è stato aggiunto Killers of the Flower Moon. Sì, ma non so se l'hanno scritto sul gruppo di Deborah l'altro giorno, salutiamo anche Pixel Deb, se vi capita andate su YouTube, iscrivetevi, attivate la campanella, date una mano, like, condivisioni, vedete i video, insomma. E sì, me l'hanno detto, anche se mi dispiace perché secondo me un film che forse andava visto al cinema, però mo quando ci abbiamo tre ore e mezza con Michela ci mettiamo là e ce lo vediamo, insomma, perché quello ci vuole, tre ore e mezza ci vogliono sicure, cioè, tre ore dura il film, cioè, va approcciato come una serie TV, cioè devi vedere tre ore dura il film, poi Michela deve dormire, quindi perché se no non ce la si riposa. No, Michele quando guarda dei film se gli piacciono, no, dipende, però se si mette lì de punta, per esempio io mi ricordo che all'Arcadia a Milano a vedere Star Wars in mezzo ai botti, cioè dico, ma senti che subwoofer. Non era il rumore della... Cos'è, un ronto? No, era un TIE Fighter, era Michela. Poi lì ho detto, boh, forse è Davide Gatti, invece no, Davide Arzila, era Michela, quindi... E vabbè. Che poi tra l'altro in quella sala addormentarsi è tosta, cioè nel senso... Comunque, sì, alla sala di energia dell'Arcadia, sì. Sì, lì ti vibrano pure le sedie, insomma, quindi le sedie, senti che... Le sedie, mi raccomando. Esegge del cinema, quello della parrocchia. Ci andavate al cinema della parrocchia? Io sì, qualche volta sono andato. No, qualche volta sì, ma Putignano non c'era, ce n'era un paese qui vicino. Però cioè, per essere un cinema della parrocchia facevano tipo Labyrinth, da Crystal, queste cose così. No, io ci ho visto... Quindi Bud Spencer e Terence Hill, tipo Altrimenti ci arrabbiamo. Bravo, i film quelli là, bravo, esatto. Sì, vabbè, i film proprio quel tipo là. Oppure ci ho visto... come si chiama quello... con Troisi e... Non ci resta che piangere. Bravo, ok. Capolavoro. Non mi veniva. Capolavoro dell'improvvisazione, tra l'altro. Mi veniva, veramente filmone pure quello, veramente filmone. Che ogni tanto meriterebbe di essere risguarducchiato, insomma. Io lo faccio, ogni tanto lo faccio. Allora, Gualdi, c'hai qualche cosa pop da dirci? Ma no, pop potremmo parlare dell'idiozia umana, però... Dai, parla dell'idiozia umana. No, è una cosa triste, cioè... Cioè la storia... del ragazzetto? Sì. Vabbè, lì ne ha parlato pure Walter. Sì, non è una cosa pop, non insomma, cioè una cosa... Cioè l'idiozia è pop, cioè nel senso comunque sono quelle cose stupide che quando non... Cioè, non la gioventù, ancora, Marco, i ragazzi non purtroppo... Ancora... sviluppato, diciamo, la progettualità, la normalizzi poi, purtroppo è normale, allora no, aspetta, ti interrompo un attimo, Marco, poi dici quello che vuoi dire. Io dico, ho fatto tantissime volte nella mia vita delle riflessioni dicendo, cioè quando vedo le cose che succedono dico, ah, guarda che coglione, quello è il ragazzino, che coglione, e vabbè. Però in realtà quante stronzate ho fatto io? Infatti. E quante volte mi ha detto bene? Cioè, io sono uno di quelli che può essere, che si può definire un sopravvissuto alla propria giovinezza, così come tanti di noi. Come te, che non ti sei neanche reso conto, magari. Che non ti sei manco reso conto. Perché io veramente, se ci ripenso ad alcune cose, se ci ripenso bene ad alcune cose, dico, cioè, perché sono ancora qua? Ma dico, è normale, perché purtroppo a quell'età è sistematico essere stupidi. Cioè, peccato non pensare alle conseguenze, cioè non avere questa causa-effetto. Abbiamo fatto delle cose che in qualche modo con le quali abbiamo attentato la nostra stessa incolumità. Esatto. Tutti, però tutti. A questo livello e non per fare i video sui social, cioè onestamente non ci avevamo gli smartphone, la nostra parziale scolpa, dice. Sì. Beh, al massimo facevamo le foto, in effetti, quindi. Guarda, io su questa cosa dei social la accetto come discorso, però secondo me i social hanno preso il posto di tante altre cose. Cioè, tu la stupidaggine prima la facevi per altri motivi, non che non la facevi perché c'erano i social, no? Cioè, sono d'accordo, perché il principio è anche questo. Diciamo che è stato, quindi il primo fa una cosa e gli altri vanno, esatto, ad imitare. Se non c'è la, se non c'è uno, diciamo, uno pubblico, poi è difficile pure che fare le cose stupide. Io mi ricordo quando ero pischello che c'avevo sempre la telecamerina o la telecamera. C'avevo sempre la telecamera, era una fissa mia, e quindi andavamo, facevamo interviste, documentari, se buttavamo, facevamo le cazzate. Mi ricordo una volta sdraiati per terra di notte sulla litoranea. Sì, ok, cioè, però non, capito, lo so, cioè, secondo me un minimo di raziocinio in più, cioè, ti ripeto, cazzate tipo mettersi sul cornicione fuori dal parapetto della scuola, ma cose veramente assurde. Però alcune altre, come appunto mettersi a surfare sul cofano della macchina in movimento, non lo so se l'avremmo fatto. Fino a quel punto la maggior parte di noi, io penso, per un minimo di istinto di autoconservazione. Sì, sì, può essere anche, è ovvio che poi dopo nella stupidità che c'hai a quell'età c'è chi è veramente più, c'è chi è più avanti da questo punto di vista. E forse, se voglio fare una critica alla società di oggi, è che il fatto che oggi tutti arrivano oltre il limite, e quindi tu devi arrivare oltre il limite ancora di più, no? Credo, perché se una cosa esce su un social è automaticamente normalizzata. Esatto, cioè, esatto. Questo forse è l'unico problema vero. Però io mi ricordo che quando ero pischello, vabbè, voi non conoscete Marina Piccola, il posto dove andavamo in vacanza, quando stavano a costruire un gazebo di sotto, in un punto che poi ci hanno messo tutta la paglia sopra, praticamente al tetto, c'era tutta sta paglia di sotto in un punto, e noi si alzavamo sugli archetti e si buttavamo di sotto, cioè, perché c'era la paglia. Però poi una volta, due volte, tre volte, la quinta volta qualcuno si faceva male per forza. Sì. Perché fatemi salutare in chat Nico Fader, che ci saluta con un buonasera. Ciao Nico, ben trovato, benvenuto. Sicuramente sei un nostro ascoltatore da tempo, però in questo momento perdonami, fatico a riconoscerti, però ciao. No, ma forse anche uno da poco, magari. Comunque, ciao Nico, bentornato. Mi sa che sì, l'abbiamo incrociato qualche volta in qualche trasmissione recentemente. Comunque, ecco, voglio dire, nel senso, non me la prendo col ragazzo, penso che sia una storia triste. No, nel senso che, vabbè, a volte, cioè, nel senso che se, per esempio, fosse, come si chiama, 14-27, 17-27 All-Star, là, come cazzo si chiama? Fratelli. Se succede a lui, dico, cioè, alla fine, cioè, non dico che batto le mani, perché... Però in tutto questo poi ovviamente c'è una sorta di concorso di colpa, e pagherà le conseguenze di questa tragedia il cugino, perché come vi raccontavo OGM leggendo la notizia, il cugino era alla guida della macchina su cui il tizio surfava. Praticamente l'incidente è nato da una manovra ancora più folle dell'idea stessa di mettersi a surfare sul cofano. Il cugino ha innestato prima la retromarcia, poi ha innestato la prima, ovviamente il ragazzo che era sul cofano è caduto, è stato schiacciato dalla macchina in marcia avanti. Quindi manco stavano in moto, cioè. Manco stavano in moto, che dire, cioè, sono andati avanti, sono frenato. No, stavano in moto, perché lui prima ha innestato la retro, ha cominciato a muovere la macchina in retromarcia. Lì va in avanti, cadi. Lui è caduto, diciamo, in avanti, e finito sotto è stato schiacciato dalle ruote della macchina. È caduto, quello è importante. Vabbè, comunque. No, una notizia triste pop, perché comunque la riportiamo un po' anche agli anni 90, so se ve lo ricordate, forse anche agli anni 80, non so se ve lo ricordate, che girava quella notizia nelle scuole, che praticamente i genitori volevano bloccare praticamente Gig Robot nel, insomma, dalla trasmissione televisiva, perché c'era un ragazzo che si era buttato di sotto gridando mi valangiavo i componenti. No, se volete c'è un intero libro di puttanate di questo tipo. Magari, guarda, ci faremo trasmissioni intere. Non è facilissimo da trovare, io ce l'ho. Come dubitarlo? Se vai su eBay si trova, si chiama Il bambino è servito, ed è una raccolta di ste robe che parte da parecchi decenni prima, parte dagli anni 50, e racconta tutte queste voci curiose che si sono sparse nei centri abitati e più o meno qual è la loro origine concreta quando ce l'hanno. Ce ne sono alcune terribili, e l'altra che è citata a un certo punto, non so se vi ricordate, c'era una collezione di giocattoli su uno scienziato pazzo. Uno di questi si chiamava Autopsia Aliena, e tu avevi questo alieno che aveva il ventre sì. Dentro c'aveva gli organi, quello e che quindi stava facendo l'autopsia al fratello. Sì, e si raccontava questa cosa, a seconda di dove vivevi, di un bambino che aveva cercato di aprire il ventre o alla sorella o al fratellino, e quindi volevano ritirarlo al mercato per questa cosa. Non è mai successa. Però, no, io ci credo che molti erano una marea. Sì, sicuramente sono frutto della, diciamo, della credenza popolare, però io vi ricordo che negli Stati Uniti un produttore di costumi di carnevale dovette scrivere per regola sul un costume da Superman che non si può volare. Il costume non consente di volare, perché evidentemente no, ma cioè che qualcuno ci si sia fatto male solo al pensiero, perché no, ma allora, in realtà qual è il problema? Che in alcuni paesi, soprattutto in America, quello che non viene esplicitato può essere contestabile in sede legale e tendenzialmente vinci, al punto tale che sui tappi del caffè da McDonald's c'è scritto attenzione, potrebbe contenere bevande bollenti, e tu dici grazie al cazzo è caffè. Grazie al cazzo no, perché se io mi ustiono, se in America ti chiedo un caffè bollente, me lo dai, io lo bevo e mi ustiono, e tu non mi avevi avvisato per iscritto che quel caffè poteva essere bollente, andiamo in tribunale e vinco. Sì, sono pienamente d'accordo, però è vero che lo di più, le commesse te lo dicono mentre ti danno la tazza. Lo so, però se lo dico non è dimostrabile, te lo do per iscritto sul tappo, diventa vabbè, loro dice te lo dicono pure. No, però io sono d'accordo con te, e sono, e sicuramente è così. Il problema è che poi alla fine ci deve essere una casistica, se no non ti viene in mente di scrivere sul costume di Superman attenzione, questo non ti permette di volare. Sì, probabilmente dire, uno c'è buttato e da lì in poi dopo tutti quanti a rota, ma scrive sta cosa, cioè no, perché hanno fatto caso non tanto perché il bambino si è rotto le gambe, ma perché non ha volato, capito? Cioè pubblicità ingannevole, e quindi per quello che si sono incazzati. Io mi ricordo, posso raccontare un aneddoto triste sul costume di Superman? Basta che c'è Superman, che sei Superman, ricorda, sì. No. Non mi devi cagar cazzo, cioè. No. Mi ricordo che c'era al mare da me, c'era sto bambino che era straviziatissimo dalla nonna, ma straviziatissimo, e che tipo lui andava dalla nonna e gli diceva nonna mi fai questo, e la nonna gli faceva tutto, qualsiasi cosa, e questo veniva ogni volta giù da noi, guarda, nonna mi ha fatto questo, nonna mi ha comprato quest'altro, nonna ma giù, nonna ma giù. E una volta è venuto questo costume di Superman, che però il costume dei Superman era sì tipo un pigiama blu con la cosa rossa qua e il mantello, tutto sommato l'ha fatto pure bene, gliel'ha fatto la nonna, solo che la S di Superman non era cucita, era tipo non so appiccicata, e quindi era tipo un pezzo di carta, e no? Tu gliel'hai strappato e lui è volato via dalla nonna piangendo, insomma. Esatto. Se come Superman ti metti le mutande sopra i pantaloni, qualche problema ce l'hai. Per non sporcarle. Esatto. Ma anche per tenere. Io c'avevo un amico mio che si metteva le mutande sopra la maglietta. Sì, ne conosco anche io qualcuno che si mette sulle camicie addirittura. Quello intendi? Eh? La maglietta dentro le mutande? Sì, che ho detto. Sì, no, era per. Se lo fai superato l'asilo devi vedere uno specialista, però no io tanti, cioè, un amico mio sicuro, perché mi ricordo lo faceva proprio, si metteva proprio, che poi in effetti se tu ci pensi quando tu ti infili bene le cose stai pure più, è per gli spifferi a una certa età. Esatto. Ai reni, no? Esatto come la maglia della salute, queste cose così. E quindi questo si era buttato mi va lanciare i miei componenti e Ma poi, ho messo la foto del libro sulla chat di Runtime. Ma poi sti componenti mio gliel'ha lanciato. No, non gliel'ha lanciato, è per quello che stai sbragnando. L'ha fatto a tempo. No. Vabbè, lo fanno. No, magari ce l'ha fatta dai cazzi sua mio, cioè, nel senso che poi mio c'ha le coscione, belle coscione. Aveva il dottore che ti guardava tra le gambe, quindi. Ecco. Vabbè. Però insomma, Miwa forse una delle più belle protagoniste femminili dei cartoni di Konagai, che poi che è il big shooter. No. Lei guidava il big shooter, sì. Che sarebbe il grosso sparatore. Esatto. Grande sparatore, esatto. Inseminator, però vabbè. La grande pistola. Esatto, il grande sparatore. Vabbè, bello, belle cose. Comunque la migliore era sempre Afrodite A, che insomma. No, la migliore era June, quella che la guidava. June c'aveva, insomma. Sì, però June non sparava le zine. No, meglio che non le sparava. Rimbalzava, vedeva per Tetsuya, che secondo me. Che poi diciamoci la verità, questa alla fine finiscono insieme canonicamente. Io avrei preferito che Afrodite A, Afrodite Z, come si chiamava? Afrodite H, vabbè, Afrodite sparasse solo un paio di zinne, perché cioè, come si riformavano? Vabbè, ma quello comunque Afrodite era quella di Sayaka, era Venus Alfa quella di sì, vedi l'esperienza, ecco. Che lanciava le zizze a ripetizione, invece l'Afrodite no. E invece quello che lanciava il missile dal pisello chi era? Mazinga. Il missile centrale che nel grande Mazinga era, cioè, la finestra nelle mutande, mentre invece allo Z si apriva proprio l'addome, lanciava questo unico missilone, che però poi unico non era, perché in alcune occasioni ne aveva lanciato altri. Esatto. Come anche, ma perché si scordavano, capito? Anche il Dead End 3. Vabbè, ma Dead End 3 era più cazzato. Aspetta, c'era anche il Dead End 3, il missile centrale. Mi ricordo una volta in cui Aaron Benjo e il Meganori si fotterono diciamo l'hardware a vicenda. Quindi il comandante Meganori gli rubò il Dead End e lui rubò la macchina della morte. Allora il Meganoide gli lancia il missile centrale all'astronave del Meganoide guidata da Rambengio. Rambengio ha visto, non mi ha fatto niente. Allora, aspetta, ma allora non serve a niente il missile centrale. Quindi in quel momento si rende conto che è una stronzata totale. Che poi fantastico. Io posso fare una domanda veramente seria, la faccio a tutti e tre, voglio che mi risponde, no? Cioè, alla fine questi qua, no? Che cazzo combattevano a fase e poi dopo c'era la mossa finale? Cioè tu sei lì tutto il combattito, sto per morire, non ce la faccio più, no, resisti. C'è tutta una teoria narrativa dietro quella cosa, che la mossa finale funzionava solo se il nemico era indebolito. Dovevano dargli un tot di colpi prima, altrimenti un bot è la fatality, insomma. La fatality. È tutto nell'ottica di quella spiegazione che poi diede anche Ortolani sul fatto perché gli alieni con una tecnologia superiore, con un esercito di robottoni, non hanno mai attaccato in massa e quindi avrebbero vinto. Invece no, uno per volta. Uno alla volta. Ma perché non c'è una benzina per tutti, capito? Quindi no, guarda, è molto più semplice. Non ci passavano. Spiegaglielo tu. No, non me la ricordo sta cosa, di giù. Perché dalla porta dell'astronave si esce uno alla volta. Ma questa è una cazzata, perché quelli dei Jig arrivano da sottoterra, oh. Vabbè, ho capito. Così, per generalizzazione, poi in realtà in Mazinga in alcune occasioni al finale epico delle stagioni attaccavano in massa, tant'è che lo Z viene ridotto ai minimi termini e arriva il grande Mazinga in soccorso. Quindi a un certo punto il dubbio che se forse attaccavamo in massa vincevo. No, però aspetta, quando attaccavano in massa, perché c'era stata l'alleanza tra le armate del Dottor Hell e l'impero di Micene, per quello arrivavano l'impero di Micene, c'erano due. Diceva, siete dei cazzoni, mo ci pensiamo noi. Esatto, cioè vuoi mettere il generale nero con il Dottor Hell? Lo so, io ho visto che avevano fatto un reboot un po' di tempo fa. Ne hanno fatti troppi, direi. No, ma recentemente su Netflix, ho visto la prima puntata, ci ho capito un cazzo. Ho detto, cioè, ma sta no, perché Nagai ogni tanto riscrive la storia da zero. Io vi do un consiglio, se vi capita. Se vi piacciono i robottoni e se vi piaceva Get a Robot, c'è cioè una serie di qualche anno fa che si chiama The Last Days, guardatelo perché veramente è bello, si capisce dall'inizio alla fine, è chiaro, è bello, alla fine torna tutto ed è pensato per un pubblico, insomma, non di ragazzini, c'è gente che crepa molto male, e credo sia forse nel panorama delle versioni per adulti o moderne dei robottoni di Nagai il prodotto fatto meglio. Sì, stiamo parlando del 1998. Sì, sì, sì, è vecchio, ma sembra fatto ieri. The Last Days, sì, The Last Days, sì, sì. Vabbè, comunque io la prossima puntata, mercoledì prossimo, voglio che qualcuno mi racconti bene, cioè in maniera accurata, la lore di Galaxy Express 999. Non ti preoccupare, ci sono io. Ok, Simone. Perfetto, perché io l'ho quando visto. Si parla di Matsumoto, è uno che degli autori giapponesi che conosco. Che è uno spin-off di Capitan Harlock. Di Emeralda e di Capitan Harlock, sì. Emeralda? Quindi è Emeralda. Sì, Esmeralda. E quindi era la sorella di Harlock, sì. Ah, non sapevo esistesse questa moglie cosa. Moglie di Toshiro. E dove la posso vedere? Penso che se vai su Just Watch e scrivi Queen Emeraldas, Just ti dovrebbe dire dove sta. Just Watch, ok. Chi è? Dove sta Esmeralda? No, vabbè, io guardi, abbiamo ancora la memoria delle prime quattro puntate di Capitan Harlock. Insomma, scrivi una lettera a Capitan Harlock. Scrivi, stronza. Scrivi l'indirizzo sopra, sennò non riusciamo a rintracciare. Capitan Harlock, Arcadia, lo spazio. Vabbè, dai. Cioè, come lettera a Babbo Natale, Polo Nord, Renne. Terribile, terribile. Io ho apprezzato molto il film in CGI, devo dire la verità. Insomma, secondo me sei stato il solo. Sì, lo so, non fa niente, però. No, cioè, era esteticamente caruccio. Secondo me gli restituisce un po' di carisma a Capitan Harlock. Sì, ma il resto c'è una trama piena di no sense. Mo non so se è perché era doppiato male, ma cioè, non c'ha senso, non c'ha capo e non c'ha coda quella trama. Ma adesso la trama non me la ricordo manco, devo dire la verità. Vabbè, mo ragazzi, non è che vorrei dire, ma pure molte trame originali di Capitan Harlock lette mo, cioè noi molte cose ricordiamo veramente ma io questo che sostenevo con Marco, cioè che tutti dico, io l'ho sempre detto, io Capitan Harlock ci ho sempre avuto questa fascinazione perché per me c'era sto carisma di personaggio un po' oscuro, era un po' il cattivone, no, da una parte, cioè era il bucaniere, no? Poi dopo te lo rivedi ovviamente con l'occhio di una persona adulta e dici, ma che è sta merda? Cioè, proprio... Vabbè, al di là poi della scrittura non al passissimo coi tempi, però poi in realtà noi forse perché concettualmente associavamo la bandiera, diciamo così, il Jolly Roger, no? E il teschio sull'Arcadia a qualcosa di negativo, ma lui oltre ad essere un po' il classico personaggio un po' tenebroso per circostanza, di negativo e di cattivo non ha mai fatto niente. No, era solo un pirata nel senso, anche in senso ribelle, no? Esatto, sì, no, ma ci sta, non è quello. Però ovviamente quel carisma che tu ti ricordi da ragazzino, in realtà lui era il meno coglione in un mondo dei coglioni, perché alla fine la cosa triste era più il background, non era tanto lui, capito? Cioè, nel senso, lui era fighissimo. La solita storia dice, ma se fanno la gara per chi è più coglione tu arrivi secondo. E perché? Perché sei troppo coglione per vinto. È giusto, anche questo. No, ma in realtà il fatto è che la serie animata, quella la prima, quella che ci siamo beccati noi all'inizio in Italia, diciamo, è la versione condensata, dove proprio non ci sono anche i personaggi o sono citati di sfuggita, tipo il migliore amico di Harlock, l'uomo che ha progettato e costruito l'Arcadia, lo Shiro, in quella non c'è. E in realtà è un personaggio fondamentale anche perché è il riflesso dell'autore, cioè Toshiro e Matsumoto, fisicamente e non, pare anche come carattere e comportamento. Quindi in realtà se si legge il manga, la versione che hanno per esempio raccolto in volume adesso, che è la versione originale, in effetti c'è un taglio che è un po' diverso. Per esempio si capisce di più che fondamentalmente l'Arcadia è un centro sociale, proprio ognuno fa più o meno il cazzo che gli pare. Ah sì, come no, quello è vero, esatto. È vero. Che nel cartone si nota poco. Invece Luca dice in chat, dice che alla fine Gundam prima serie era l'unico veramente realistico, ma Gundam viene anche dalla serie dei romanzi, se non ricordo male, insomma, quindi no, romanzo. È un prodotto originale di Tomino. No, ci hanno fatto i romanzi dopo, però. Sì, ci hanno fatto di tutto. Vabbè, comunque l'impronta è quella del romanzo sci-fi, cioè nel senso comunque... È una saga di fantascienza ampissima, curatissima, dettagliatissima e anche da un punto di vista proprio, diciamo, delle trame politiche, delle trame sociali, assolutamente accettabile. Sì. Anche se però te la rivedi oggi di produrlo, cioè esistono un universo enorme. Esistono vari universi di poi, tra l'altro sono andati anche in parallelo. Io personalmente non ci capisco niente, ho rinunciato anche solo a provare a guardare Gundam perché non ci capisci niente, è pieno di presupposti e sottintesi, qualunque opera provi a guardare siccome parla della storia del Principato di Zion, della Nuova Terra, eccetera, se non sai di cosa stai parlando, e non sai di cosa stai parlando, tu fatichi a seguire ogni logica delle trame. Il Principato di Zio? Zion, che sarebbe Zion forse se lo volessimo dire alla Matrix, però diciamo doppiato originariamente era Zion, cioè parla tutti i terrestri, solo che uno era una fazione, uno era un'altra. Sì, erano splittati nello spazio, c'erano colonie, sì, un po' come The Expanse alla fine, tutto sommato. Sì, esatto, cioè, e poi tra l'altro i cattivi, i fascistoni, se ci avete fatto, ci sono tutti l'emblema da Lazio da parte. Tipo c'era quello biondo col mascherino, che io non ho mai capito perché ste cazzate, che lui c'aveva proprio l'aquila, quella da Lazio del meno 9 su. Vabbè, probabilmente richiama l'impero romano, ma ecco. Tutti i simbolismi nazisti più che altro, dai, tutto sommato. Sì, comunque l'archetipo che voleva in qualche modo andare a scuotere era quel tipo lì. Vabbè, sì, comunque sì, anche i colori delle divise un po' ricordano proprio l'immagine, l'iconografia è quella del nazismo. Naturalmente poi i giapponesi stavano su tanti cartoni animati, stavano un po' da sta roba. Bene, chi è? Pronto? Vi saluta mio figlio, è passato a salutare. Ciao Pietro. Ciao Pietro. Si chiama Pietro, sì. Sì, sì. Okay. Va bene, dai. E comunque io vi saluto prima di salutarvi, però vi ricordo che io ho visto il film live action. Saluti prima di salutarci. Sì, esatto, prima di salutarvi vi ricordo che io ho visto il film live action della Yamato. Anche io. L'abbiamo visto insieme, Sì, allora. Lo so. Ma che brutto, che imbarazzo, cringe. Un po' imbarazzo. Che poi tutto sommato come film, cioè nel senso dal punto di vista tecnico non è fatto manco male, è proprio nel senso riportare negli anni 2000 una narrativa degli anni 80 dove la donna è quella che ti casca addosso e fa e questo è lo scopo della donna, che è un po' come in The Forbidden Planet, no? Cioè negli anni 50 e 60 le donne, e 70 anche volendo, le donne strillavano in basso, e svenivano. E tu le dovevi raccogliere perché era questa cosa molto macia che tu raccoglievi le donne, insomma. E lei tardava subito in automatico perché proprio. Beh, in Forbidden Planet lei si è trombati tutti, mi ha raccolto quella di Adona a cazzo che... mi ha raccolto, mi tocca sta botta. Vabbè, Forbidden Planet, se non l'avete visto ragazzi dovete, cioè, il pianeta proibito, Forbidden Planet è un negozio de giochi di Roma, poi no, vabbè. Forbidden Planner pure un po', no, poi non c'è, anche credo non ci sia più da tanti anni Forbidden Planet, comunque lo fanno sarebbe il pianeta proibito, il film clamoroso degli anni 60 con un incredibile Leslie Nielsen. Tra l'altro bell'uomo, vabbè, lì erano tutti bellocci, dai, tutti un po' così, insomma. Film che va assolutamente rivisto perché non soltanto è un classico sci-fi, insomma, da fantascienza, ma perché in proporzione a quando è stato realizzato, delle tecniche, degli effetti speciali veramente levate proprio. Disegnate a mano, fotogramma, incredibile. Però il Forbidden Planet a Via Pinerolo è ancora aperto, così. Allora andiamoci, alla faccia nostra. Andiamoci e vediamo se sono gli stessi proprietari. Ma io un salto ce lo farei. Infatti. Il film a cui fai riferimento, ho capito qual è, credo di averlo visto non troppo tempo fa, rivisto, o su Netflix o su Prime Video, quello dello scienziato che vive su questo pianeta con questa pseudo famiglia, con questa ragazza più giovane. Solo la figlia. E Robby il robot. Sì, me lo ricordo. Che poi c'era la civiltà antica, no? Che erano trascesi, però poi alla fine erano arrivati al controllo della mente, e però la mente svegliava anche la parte violenta dei loro stessi. E si sono autoistinti. No, ma guarda che era figo, cazzo, quel film. Voi contestualizzandolo e ancora guardandolo oggi, io lo guardo e mi piace. Cioè, a parte ovviamente... oppure lei che si baciava tutti, che questa cosa, perché lei giustamente non avendoci esperienza lì, ho sceneggiatore si è proprio divertito, capito? Cioè, questa non ha mai avuto un uomo, la fama che bacia tutti e ogni tanto usciva fuori da una fratta, perché alla fine era il futuro. sì era uscito fuori da una fratta, è così. Vabbè, Puccio, c'hai qualcosa da aggiungere? Niente di particolare. Poi magari settimana prossima devo spiegare a Walter una serie che secondo me potrebbe piacergli, perché come Gundam, ma non è complicata come Gundam. Il problema è trovare tutti i numeri, però. Potrebbe piacere pure a me, allora. Sì, sicuro. però il giapponese ve la dovete leggere alla giapponese, cioè al contrario rispetto a noi. Ah vabbè, no, se da legge no, non alla quindi alla fascista, no, ci sono anche dei veramente notevole. Poi è Walter, amore, saluta Walter. Pietro, ciao, vedi, ti saluto. Il nome della serie? The Five Star Story. Ah ok, non conosco, va bene, poi allora ce ne parli. Va bene, va bene. Poi ricordati di Galaxy Express 999, no? Si chiamava così poi. Sì, sì. Arriverò preparato. Ok. Sì. Walter, tu hai qualcosa da aggiungere? Ciao. No. Marco, tu hai qualcosa da aggiungere? Assolutamente no. Vabbè, venerdì c'è un altro episodio di Ho visto cose. Oh. Venerdì con quello di Renfield, ok. Quindi venerdì mattina vi ricordo che esce alle ore 7, Ho visto cose. E invece Walter domani torna alle ore 20, ovviamente sempre su antemiradio.it. Io torno invece venerdì mattina alle ore 7 con una puntata, insomma, secondo me può essere interessante. Puccio non torna perché ha deciso che non mi farà mai più i podcast, ma non fa niente. Però perché non voglio darvi il dolore di interrompere un podcast quando verrò a mancare per l'intervento. Hai ragione. Quindi però quando si supererà, però allora la promessa è: se supererai l'intervento, poi farai i podcast, giusto? Ok. Va bene, vi ringrazio a tutti. Ciao Puccio, ciao Walter, ciao Marco. Ciao. Vi lascio con una storia, ovviamente. È la storia di Simona. È una storia abbastanza importante, che è stata scritta da Andrea Trevisan con l'intelligenza artificiale. E sempre un saluto vi lascio, insomma, lascio a Andrea, sperando, insomma, di riaverlo con noi il prima possibile. Ciao a tutti e buonanotte. Ciao. Ciao. Simone Pizzi era un uomo di 30 anni che lavorava come impiegato in una banca di Milano. La sua vita era monotona e noiosa e non aveva nessuna passione o interesse particolare. Un giorno, mentre tornava a casa dal lavoro, si imbatté in una strana bancarella dove un vecchio venditore, Gili, propose di comprare una lampada magica. Simone, incuriosito, accettò l'offerta e pagò 10 euro per la lampada. Arrivato a casa, Simone strofinò la lampada, sperando di vedere uscire un genio che esaudisse i suoi desideri. Invece, si sentì un forte dolore al petto e perse i sensi. Quando si risvegliò, si accorse con orrore che il suo corpo era cambiato. Era diventato una donna. Si guardò allo specchio e vide una bella bionda con gli occhi azzurri e le curve generose. Non capiva cosa fosse successo e cercò di trovare una spiegazione. Si ricordò della lampada e la prese in mano, ma non successe nulla. Allora si accorse che c'era un biglietto attaccato alla lampada che recitava: «Caro Simone, ti ho fatto un favore. Ti ho trasformato in una donna, perché così potrai vivere una vita più felice e interessante. Non preoccuparti, il cambiamento non è permanente. Se vorrai tornare ad essere un uomo, dovrai solo pronunciare la parola magica, abracadabra. Ma ti consiglio di provare a essere una donna per un po' e scoprire le meraviglie che ti aspettano. Buona fortuna, il tuo amico il genio». Simone rimase sbalordito da quel messaggio e non sapeva se crederci o no. Pensò di pronunciare subito la parola magica, ma poi si fermò. Forse il genio aveva ragione, forse poteva essere divertente essere una donna per un po'. Così decise di sperimentare la sua nuova identità e si mise a cercare un nome femminile. Scelse Simona perché era simile al suo nome originale. Così se sbagliava. Simona iniziò a vivere come una donna e si rese conto che il genio non aveva mentito. La sua vita era diventata più avventurosa e stimolante. Si licenziò dalla banca e trovò un lavoro come modella, grazie alla sua bellezza. Viaggiò per il mondo e conobbe tante persone interessanti. E si scopò. Si innamorò di un uomo affascinante e ricco che la portò a vivere a Venezia, la città dei suoi sogni. Simona era felice e soddisfatta e non pensava più al suo passato da uomo. Ma un giorno, mentre passeggiava per le calli veneziane, si imbatté di nuovo nella bancarella del vecchio venditore. Così, questo stava a casaccio. Lo riconobbe subito e si avvicinò a lui. Il venditore la guardò con un sorriso malizioso e le disse: Ciao Simona, piace, ti ricordi di me? Ti ricordi della lampada magica? Mette d'arco. Simona si sentì un brivido lungo la schiena e rispose: sì, mi ricordo. Sei tu che mi hai trasformato in una donna. Ti devo ringraziare, mi hai cambiato la vita in meglio. Il venditore annuì e disse: mi fa piacere che tu sia felice, ma sai, la magia ha un prezzo. E il prezzo che devi pagare è questo. Devi scegliere. Devi scegliere se restare una donna per sempre o tornare ad essere un uomo. E devi scegliere ora, perché la lampada magica sta per perdere il suo potere. Cazzo. Quindi, dimmi, cosa vuoi fare? Che vuoi fare? Simona rimase senza parole e si sentì confusa. Non sapeva cosa scegliere, perché amava la sua vita da donna, ma allo stesso tempo sentiva la nostalgia del suo corpo originale. Si guardò intorno e vide il suo fidanzato che la aspettava in un caffè vicino. Lo amava, ma si chiese se lui l'avrebbe amata anche se fosse tornata ad essere un uomo. Qualcosa mi dice di no. Si guardò le mani e vide la lampada magica che teneva stretta. Si chiese se il genio fosse ancora lì e se le avrebbe dato un consiglio, ma non sentì nessuna voce, solo il suo cuore che batteva forte. Allora Simona prese una decisione. Pronunciò la parola magica: abracadabra. Abracadabra. E in un attimo tutto cambiò. Simona tornò ad essere Simone e il suo corpo riprese la sua forma originale. Il venditore sparì e la lampada magica si trasformò in polvere. Simone si guardò allo specchio di una vetrina e vide il suo volto da uomo. Si sentì strano, ma anche sollevato. Aveva fatto la scelta giusta, pensò. Poi si girò verso il suo fidanzato, che lo guardava con stupore e incredulità. Simone gli sorrise e gli disse: ciao, sono Simone. Ti voglio raccontare una storia. Ma che bella storia, che bella, bellissima storia, proprio emozionante. C'ho le lacrime agli occhi. Buonanotte a tutti. Ciao.